difende il pallone, prova a girarsi, Gonzalo! Alla rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Tuoni e fulmini! E saette! Il cross del capitano! Panzaretti! Gol! Panzaretti! Panzaretti! Panzaretti! Federico! Bello de casa! Sei diventato tutto rosso! Con i capelli biondi sei giallo e rosso vero! Tutti convocati di Carlo Genta. Hai disappointed because every team that Mario do is a big situation. Yeah, I'm different than Mario, so. What about Mario Balotelli? There'll be a lot of stories about him again. There'll be a lot of stories about him again. No malice, we need a challenge. The media say we are savage and we are callous. When we go at it, leave it damaged. Believe in magic, they hope we burn. The thought is tragic, the thought is tragic. Why always me? Why always me? Lo spiego io, why always me? Lo spiego io. 20 giornate di squalifica, 8 espulsioni, 77 cartellini gialli in 222 partite. Poi con il Milan è andato peggiorando, ma so che molti di voi mi stanno aspettando al varco e io sono qui, non vado da nessuna parte, eh? 800240024, Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Dunque, 3 giornate a Balotelli, e lo sapete da ieri, perché ha dato di matto dopo Milan-Napoli domenica. La notizia di oggi, l'avete sentita anche prima nel GR, è che il Milan, per non meglio precisati motivi etici, rinuncia, fa ricorso contro la chiusura della curva sud. E qui potremmo parlare di motivi etici, ma per motivi etici che a me sfuggono, rinuncia al ricorso con Balotelli, contro la squalifica di Balotelli, che dunque salterà Bologna-Milan domani, Milan-Sampdoria sabato e il 6 ottobre Juventus-Milan. Continuo a pensare che Balotelli calcisticamente sia un fenomeno, sia il più forte attaccante italiano, uno dei più forti al mondo. Continuo a pensare che un suo grande difetto calcistico, di quello che fa fuori dal campo non mi importa nulla, il suo grande difetto calcistico sia questa vulnerabilità alle provocazioni che inevitabilmente ci sono e sono continue da parte degli avversari. E non è la prima volta, come sapete, che becca 3 giornate di squalifica, perché già era successo lo scorso anno dopo Fiorentina Milan cartellino giallo e poi le proteste con i guardaline e poi le 3 giornate di squalifica che arrivarono allora al Milan, che evidentemente non aveva ancora scoperto i motivi etici, fece ricorso, la terza delle 3 gli venne scontata, gli venne tolta, questa volta no. Ma sentiamo qual è la differenza, giusto per rinfrescarci la memoria, perché anche questo è un aspetto interessante, perché adesso c'è il tiro al Balotelli furioso, ne parla male perfino, vabbè, Berti, poi lo sentiamo, e essere rimproverati da Berti ci vuole tanto, Ma anche Boateng ieri ha detto: Mario deve imparare a stare più tranquillo. Boateng, capito? Non Sant'Agostino. Allora, torniamo ad Allegri, alla sua reazione dopo la partita contro la Fiorentina l'anno scorso e quelle sceneggiate di Balotelli. No, non ha cacciato via il pallone, credo che lui era a mezzo metro, è stato bravo a battere la punizione, lui ci ha messo il piede. D'altra parte è un errore che ha fatto e credo che ci vuole molta pazienza, ci vuole molta serenità ed equilibrio, perché abbiamo una squadra che deve crescere. Io non posso pensare che tutte le domeniche Balotelli possa essere decisivo, io lo spero, ho commesso questa piccola ingenuità che purtroppo gli costa la partita di Napoli, ma tanto era diffidato, una partita la doveva saltare. Allora, l'anno scorso era una piccola ingenuità, quest'anno invece, 3 giorni fa dopo la sceneggiata con il Napoli, è qualcosa di diverso. Sentiamo Allegri. Io credo che quando le partite sono finite bisogna rimanere zitti, perché altrimenti facciamo solamente dei danni. Io sono contro gli attacchi isterici, io sono solamente a favore di giocare bene le partite, di stare con la testa sul campo. Poi una volta che l'arbitro finisce è inutile stare lì a fare confusione, e noi su questo dobbiamo migliorare. No, la piccola ingenuità è diventata un attacco isterico. Secondo me era un attacco isterico quella volta ed è un attacco isterico questa, ed in entrambi i casi è poco giustificato. Mentre c'è Alex da Reggio Emilia che scrive: bravo Milan, era ora che qualcuno prendesse a calci nel culo quel viziato di Balotelli. Vabbè, allora il Milan punisce, cosa fa? Punisce il suo miglior giocatore, quello che è di gran lunga il suo miglior giocatore, quello che è di gran lunga l'unico giocatore di un altro livello che gioca attualmente nel Milan. Allora il Milan, va bene, rinuncia a Balotelli, rinuncia al ricorso contro la squalifica e non fa una piega, poi giocherà con Birsa, no? Dunque, adesso c'è il tiro al Balotelli, furioso. Si aggiunge all'elenco, anche si è aggiunto sul sito della Gazzetta, nei suoi commenti, si è aggiunto all'elenco anche Nicolino Berti, non esattamente uno dei più tranquilli quando giocava nell'Inter. Balotelli, se migliorerà ancora questi suoi comportamenti, insomma, adesso sta vivendo un momento straordinario. È lui il Milan, è lui che ha preso in mano le redini di questa squadra, però non può ancora una volta fare queste brutte figure. Le proteste e togliersi la maglia, proprio da cretini, insomma. Situation. 800 24 00 24, numero verde, ovviamente parliamo di questo, ma non solo di questo, ragazzi, tutti convocati per parlare di sport e non solo di questo. Sauro, provincia di Prato, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Che dire, io non vorrei unirmi al coro degli anti-ballotelliani per il gusto di farlo, perché oggi è veramente facile sì. Tirargli delle sassate, credo sia veramente facile. Volevo trovare una qualche cosa di diverso. Io dico, vabbè, a volte si cerca a scuola con i discoli di avere anche un attimino di pazienza in più. Mi sembra che con Balotelli invece cerchino di avere un po' di pazienza in meno. Forse è giusto, è solo un'opinione. Però ecco, la trovo un pochinino anche un massacro in un certo momento. Poi sì, il populismo, per carità, guadagna un sacco di soldi. Ma sì, ma sono tutte sciocchezze, fuori dal campo, va con l'escort, come dice lui, esatto, gira con le macchine belle, ma chi se ne frega di quello che va fuori, esatto, dal campo. Io lo guardo sul campo, Sauro, e dico, esatto, Balotelli, secondo me, è il più forte giocatore italiano, è uno dei più forti attaccanti del mondo, che ha un grave difetto, che è questo, cioè quello di rispondere in modo molto poco intelligente alle provocazioni che sono continue. E ovviamente a certi livelli, ma non solo a certi livelli, perché non so se qualcuno di voi ha fatto sport a un buon livello, sa perfettamente che quando entri in campo l'allenatore ti dice: guarda che quello lì reagisce alle provocazioni, quindi esatto, magari esatto, due paroline nell'orecchio digliele. Insomma, è il segreto di Pulcinella, ecco, questo, quello, no? Che vorrei dire è proprio questo, dico, da parte anche degli arbitri, però, che sanno queste cose, non è corretto e leale neanche quell'atteggiamento. Io ho giocato anch'io e mi dicevano sempre: quello lì tagli subito una, bravo, una o quello lì al primo fallo stiralo, che poi ha paura, no? O no? Però voglio dire, gli hanno fatto un paio di falli da dietro domenica, sì, che allora, cioè, direi solo un minimo di stemperare un po' questo luogo comune ballotelliano, perché altrimenti poi diventa molto difficile recuperare un giocatore del genere, perché non questo la testa che c'ha lo sappiamo tutti, sì, certo, infatti è un lancio una monetina. Bravo Sauro, io raccolgo la monetina e la butto insieme a lei nella fontana. 800 24 00 24, sperando la fontana, sperando di tornare a vedere sul campo un grande giocatore, uno dei pochi che mi diverto a vedere giocare, ed è ancora così, mica cambio idea. 800 24 00 24, strade. Se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio può infettare anche tutti gli altri. Balotelli è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Tutti convocati. Ho detto prima che mi sfuggono i motivi etici del mancato ricorso del Milan nei confronti della squalifica di Balotelli. Mi sfuggono anche perché non vengono invocati motivi etici invece per evitare un ricorso che poteva anche essere evitato che invece il Milan farà contro la chiusura della curva sud per questioni di razzismo. Mi sfuggono anche i motivi etici che stanno alla base del ragionamento di Patrizio, che evidentemente di etica non ne ha tantissima, di motivi etici da addurre non ne ha tantissimi, quando scrive: io tifo Milan e non mi sfuggono i motivi etici, è bene che si levi dalle palle l'abbronzato. Io qui invoco i motivi etici contro Patrizio da Pistoia. 800240024. Allora, sarà il nome Mario. Fatto sta che io ne conosco uno che non è molto lontano da Balotelli come talento e neanche come testa calda. Terzo nella storia del nostro basket ad andare oltre quota 11.000 punti segnati. Primo in classifica, credo, nella storia del nostro basket alla voce insulti presi. Si chiama Mario B. Mario, ciao, Boni. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Mario. Grazie per avermi convocato. Allora. Dimmi prima una cosa. Sì. Tu sai... non ti chiedo quali e quanti insulti hai preso in carriera, perché sei stato uno dei giocatori più amati ma anche più odiati della storia del nostro pallacanestro per come interpretavi il gioco, no? Sì, esatto. Sbaglio? No, esatto, giusto. Ok. Quante provocazioni ricevevi in campo ad ogni partita? Perché gli avversari ovviamente sapevano: Mario Boni, rompigli le scatole. Sì, sì, no, ma questione Balotelli, razzismo e tutto, tu so che ho preso posizione piuttosto forte, giustamente. Io però voglio vedere, cioè, tutto quello che succede, come non come razzismo fine a se stesso, perché il razzismo si vive ogni giorno nelle strade, nella quotidianità. Io voglio prendere quello che fanno i tifosi più come un modo per far perdere la concentrazione oppure per irritare un giocatore, anche perché altrimenti non capisco la differenza che c'è tra fare i bu a Balotelli, ai giocatori di colore, e dire figlio di puttana a Mario Boni. Quindi ecco, cioè, non riesco a capire questa differenza. Io credo che sia maleducazione, ecco, questo sì. Sì, è maleducazione, però non lo so, a me quel busa di qualcosa di molto più meschino, no? È chiaro che poi se stiamo qui a mettere sulla bilancia gli insulti, il letame da una parte e quello dall'altra, a vedere quale pesa di più, non lo so. Mi viene da dire che quando uno va allo stadio le cose più becere vengono fuori, lo so che questo è sbagliato, però credo che sia più da condannare quando uno esagera, quando ecco gli episodi di violenza, quelli devono essere condannati in maniera ferma, dura, sempre, comunque, un po' come fanno in Inghilterra. Per quanto riguarda, anche adesso voglio dire, riguarda quello che è successo al Milan, no? I cori razzisti verso i napoletani, io lo vedo anche in maniera, come dire, ormai le curve sono fatte da meridionali di seconda generazione che sono nati, vissuti a Milano, all'accento milanese, eccetera, quindi non lo prendo più come qualcosa di goliardico, non di così grave. Io non ci vedo razzismo in tutto questo. Sì. E il fatto di dire, fare il bu a Balotelli, che tra l'altro è un bel ragazzo, piace tantissimo alle donne, guarda, 5 milioni di euro, lo vedo proprio come una maniera di irritarlo, e ce lo fanno bene, ma questo è evidente. Però a me interessa di più il campo, più che quello che succede fuori. Mario, in campo Balotelli tutti sanno che reagisce in maniera eccessiva ad ogni tipo di provocazione, e quindi ovviamente viene provocato continuamente dagli avversari. Lui ci casca perché è un pollo, e in questo deve migliorare tantissimo. Io però ho visto, anch'io venivo sempre provocato, quindi però ecco, oppure provocavi, no? Provocavo parecchio, però era questo il mio modo di giocare. Ma voglio aggiungere che quello che ha fatto Balotelli dopo la partita io non lo vedo da 3 giornate, ecco. Io voglio dire, la discussione, adesso non ho letto il labiale, non so cosa possa aver detto di così sconvolgente all'altro. Beh, insulti e minacce. Ecco, mica male, insulti e minacce. È un po' da pollo, però tu non credi che sia più giusto multare il giocatore e magari un po' come l'NBA, dare una giornata per non togliere ai tifosi la possibilità di vedere un grande giocatore? Ecco, 3 giornate è una penalizzazione molto forte. Io credo che una bella multa faccia più... come dire, abbia più senso. Sono d'accordo, anche perché forse tu sai benissimo, essendo stato giocatore, se c'è una cosa che al giocatore dà fastidio è quando gli toccano il portafoglio, no? Bravissimo, a parte che il Milan sicuramente non multerà, però di fronte a queste cose, proprio per la regolarità del campionato, per il piacere dei tifosi di vedere Balotelli, straordinario giocatore, una multa al giocatore io lo vedrei più indicata. Senti, ma questa scelta invece del Milan di non fare ricorso per motivi etici nei confronti di Balotelli, secondo te cosa vuol dire? Vuol dire che il Milan vuole punirlo? Vuol dire che al Milan vogliono mandare un messaggio a Balotelli? Perché poi il Milan non si è trincerato dietro motivi etici per evitare il ricorso contro la chiusura della sua curva, quindi motivi etici diversi, mettiamo così. Ma non so, io credo tu come che la vedi? Io credo che magari quando quello che scrive l'arbitro è così circostanziato è difficile anche trovare un appiglio per il ricorso. Io credo, io fossi stato il Milan avrei fatto in ogni caso ricorso, perché ecco, 3 giornate mi sembrano obiettivamente troppe. Mario. Io non ho mai preso 3 giornate però consecutive, ne prendevo una alla volta, e nella pallacanestro esiste quella regola tremenda che, come dici tu, che sì, cioè, quando prendi una giornata puoi sospenderla pagando una multa, e quello sì, dava molto fastidio, e la volta dopo ti ricordavi, anche perché non guadagniamo quanto guadagna Balotelli, no, purtroppo. Parlami della tua Indo-Inter. Ieri ho detto e mi sono beccato giustamente del malizioso da Giancarlo Padovan che ho la sensazione che l'Inter giochi molto per il suo presidente, però non ho capito bene quale presidente, se quello vecchio o quello nuovo. Ma adesso quindi tutto... Rimane comunque la squadra più catenacciata d'Italia, secondo me, in questo momento. Ma insomma, io ho visto, a parte ho visto dei giocatori completamente rigenerati, Jonathan e Alvarez sembrano insomma, altre persone. Beh, mi sto divertendo a vedere l'Inter, però aspettiamo, no? Abbiamo fatto una buona partita contro la Juventus, contro il Sassuolo preferirei non giudicare, e adesso arriva la Fiorentina. Mi sto divertendo, Mazzari all'uomo giusto, al punto giusto, Moratti ci ha dato tanto, la grave colpa di Moratti è quella di non aver saputo ricostruire al momento giusto, però in ogni caso noi interisti dobbiamo ringraziarlo. Senti, ti becchi del servo di Galliani via SMS, perché dici solo multa. Sì, che cosa del servo di Galliani? Oh. No, io sono interista, io dico solo che mi piace vedere giocare i calciatori. Bravo, anche a me. In campo. Mi piace vedere, cioè, 3 giornate a Balotelli, non poterlo vedere in campo, magari che si incazza, che magari sbaglia un altro rigore. Ecco, questo per me è un dispiacere, 3 giornate sono troppe. Mario, prima di salutarti, dimmi dell'Italia del basket. Guarda, è partita benissimo, poi un po' deludente, molta stanchezza. Sto un po' rimpianto di non aver visto il Diner di Sassari, è un po' un giocatore, Diner un po' come ero io, quei giocatori che hanno bisogno di tanti minuti per potersi esprimere, di avere in mano la squadra, se si convoca Previs Diner per 15 minuti è meglio non convocarlo. Sì, o per 2 o per 3 o per 1, come è stato nelle ultime partite, la sensazione che questa esperienza di Diner, che un playmaker così non ce ne sono in Italia, no, ce ne sono pochi in Europa. Anche perché poi, ripeto, il giocatore deve accettare il ruolo. Io credo che Diner essere dietro a Cinciarini sia per lui, magari ognuno ha la sua visione della pallacanestro dei ruoli, però ecco, è un giocatore che ha bisogno di giocare tanti minuti e avere la squadra in mano. Grazie Mario. A voi, a presto. Grazie. A Mario Boni, Balotelli dei canestri, sa se questa gli piace. 800 24 00 24, torniamo al basket per sentire questa. Con te il mago e magari Hackett, dove potevano arrivare? L'Ital Basket all'Europeo dove poteva arrivare? Non lo so, è difficile dirlo perché non eravamo lì, quindi però sicuramente sarebbe stato il gruppo completo e quindi c'era la possibilità di arrivare in alto, ma io penso che il risultato e quello che ha fatto la Nazionale quest'estate sia comunque qualcosa di grande, perché pochi se lo aspettavano, e quindi complimenti a tutti i ragazzi e all'allenatore. Non ce l'abbiamo fatta ragazzi, stavamo cercando Marco Giampaolo. Sapete questa storia, no? Sconfitta del suo Brescia in casa 2-1 con il Crotone sabato e poi noi lo pensiamo, sì, ma non si trova, non lo trova nessuno. Il fratello ha detto non è scomparso, si è nascosto. So che è ancora Brescia, dovrebbe vedersi quella società che ha respinto le dimissioni, ma non so altro. Ha il cellulare spento, non riesco a parlargli. Comunque sta accadendo qualcosa di poco logico, dice il fratello. Fatto sta che Giampaolo, ragazzi, non si trova più. Allora, 800 24 00 24, numero verde. Adesso vi lascio la borsa, ma prima vi dico una cosa. Connettetevi con Twitter. perché? Perché subito alle 14.35 vi do questo appuntamento su Twitter, hashtag tutti convocati, ma l'indirizzo ormai lo sapete, avrete un indizio su quello che sarà il nuovo programma a partire dal prossimo lunedì, cioè dal 30 di settembre, con il nuovo palinsesto di Radio 24. Bene, grande novità, grande e grossa novità. Andate su Twitter, poi ne parliamo, oppure non ne parliamo, anzi non diciamo più niente, andate su Twitter e basta. Borsa, sei diventato tutto rosso, con i capelli biondi sei giallo e rosso vero. Tutti convocati. Bla bla bla bla bla bla, siete solo capaci di scrivere, oh, quanto è brutta questa trasmissione, ma chiamatemi, scienziati delle scalette, 800240024, io sono qui, non mi nascondo mica, eh. Voi perché vi nascondete? Siete d'accordo con me? Ma benissimo, sarà più divertente parlare. Tanto leggo qualche email, anche questi, delle email. Ragazzi, ma chiamatemi, ma vi convoco tutti i giorni, ma quando, la telefonata è gratis, che vi costa? Piuttosto che stargli a scrivere, chi se ne frega se il Milan in passato è stato più accondiscendente con il suo campione bulletto, ora fa bene a bacchettarlo, punto. Piuttosto mi fa specie che il gestaccio ai tifosi laziali di De Rossi sia passato in cavalleria, punto. Ovviamente anche nella tua trasmissione, punto. Ma ciao Marcello, ciao Marcello. Comunque, a norma di codice giustizia sportiva Federcalcio, il calciatore può anche fare ricorso personalmente se gli serve un avvocato, sono a sua disposizione. Bravo Daniele, bravo, ti piacerebbe, eh? Pensando a Mario, ci vedo un parallelo con il telefilm americano Terapia d'Urto, dove un giocatore di football americano che ha la testa come Mario e le combina di tutti i colori viene affidato ad una psicologa ipnotista. Mi manca la psicologa ipnotista. 800240024 è il numero verde. Siete andati su Twitter per scoprire qualche indizio su ciò che sarà di tutti i convocati dal 30 di settembre, da lunedì. Andateci. Giovanni Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Salve, in merito alla questione Balotelli, il calciatore verrà multato dall'AC Milan, anche lei sappia? Grazie, buona giornata. È stato cosa mi ha chiesto? Non ho sentito bene. È stato multato? Se verrà multato, io suppongo di sì, suppongo, certo, di sì, suppongo, certo, che certo, verrà multato e gli verrà fatto una gran bella lavata di capo. Poi va bene, fanno bene, magari impara, deve levarsi questo vizio dannato di essere così vulnerabile, di essere così debole e fragile dal punto di vista emotivo quando gioca. No? Ci vuole più disciplina, credo. Ci vuole più disciplina. A molti è piaciuta anche l'idea di Mario Boni, quella di toccare i giocatori nelle tasche piuttosto che privare il pubblico dello spettacolo di certi giocatori in campo. Io sono d'accordo con Boni, ha ragione secondo me. Insomma, diamogli delle multe anche importanti, pesanti. Federico d'Alessandria, certo, scrive anche il 10% dello stipendio annuo. Ora non so, non saprei dare una cifra, però invece di punire gli spettatori privandoli dei protagonisti in campo, puniamo i protagonisti in campo che sbagliano frugandogli nelle tasche. Andrea Milano, buongiorno. Ciao Carlo, grazie. Ciao. Per la convocazione. Grazie a te. Ascoltami, io intervengo per il discorso del razzismo degli stadi. Allora, io vivo per motivi professionali al nord, tifo Napoli, sì, e quando posso vado a vedere la squadra a Milano, piuttosto che a Verona, a Torino, a Bologna, eccetera, sì, a Parma. No, a Torino no. Evito, mi sembra un po' pericolosa ultimamente. Perché invece Verona è una passeggiata di salute. No, Verona Ella sta anche quella lì. Insomma, mi piace andare tranquilla allo stadio, per quanto possibile in Italia. E in ogni stadio, in qualsiasi stadio d'Italia, è successo anche a Bari, cioè i napoletani vengono insultati. Allora, c'è una bella differenza tra dare del pezzo di M allo Juventino, e la cosa non mi piace perché il tifo contro è inutile, l'insulto a maggior ragione, e prendersela con un popolo, cioè, è meschino. Io non capisco perché soltanto oggi hanno preso queste decisioni. Cioè, è ridicola. Perché la linea che è stata scelta di non far passare più nulla è questa, è stata inaugurata In questa stagione si è detto andiamo giù duri con le sanzioni, poi è inutile dire che queste cose sono delle novità, perché io invece vado allo stadio dalla metà degli anni 70, prima volta che ho visto metà degli anni 70, e punto primo, era molto ma molto più pericoloso di adesso andarci, punto primo, era anche molto più semplice in realtà. Perché si, davvero si rischiavano le botte prima, durante, dopo, le cariche dentro gli stadi e scene che voi umani non potete neanche immaginare se non avete frequentato gli stadi in quegli anni. Secondo, anche in quegli anni, ovviamente, è cronaca purtroppo, si sentivano insulti di questo tipo anche a sfondo razziale. Quello che io dico, va benissimo questa linea, io poi continuo a pensare che lo stadio non sia una messa cantata, ma sia un luogo in cui, entro certi limiti, anche la spazzatura sonora può essere tollerata. No, anche la spazzatura sonora può essere tollerata, però ci sono dei limiti anche in quello. E secondo me lo sfondo razziale è quanto di più volgare, di più meschino e inaccettabile ci possa essere. Torno a ripetere, una gran paura di questa deriva, perché si dà agli ultra, la tifoseria organizzata italiana, perché solo in Italia esiste questo pazzesco fenomeno della tifoseria organizzata che ricatta le società, ma sappiamo bene come siano queste cose, no? Perché le leggiamo ormai da moltissimi anni, le conosciamo ormai da moltissimi anni. Ebbene, le società scendono a patti con i tifosi, con le tifoserie organizzate, che spesso sono gestite da delinquenti, anche delinquenti comuni che col calcio non c'entrano nulla, e allora si va a ricatti sulle trasferte, sui biglietti, eccetera eccetera. Io ho paura che questa linea che è stata scelta possa dare alle tifoserie organizzate o alle frange più estreme delle tifoserie organizzate, che sono quelle che trattano con le società, uno strumento in più di pressione nei confronti degli stessi club. E questa è la mia paura, perché è una perversione tutta italiana. Raffaele Napoli, buongiorno, e non mi dica non parli mai del Napoli, Buongiorno, grazie alla possibilità di intervenire in diretta. Grazie a lei. Vorrei fare la mia riflessione su due punti. Il primo, sì. Vabbè, io rappresento a San Siro, ho fatto la trasferta domenica e riguardo la squalifica di Balotelli. Io credo che, vedendo la partita, Balotelli è stato l'unico del Milan che ha giocato praticamente da solo contro 11, ha fatto un partitore, per me è un campione inappellabile, quindi dovrebbe essere anche, tra virgolette, tutelato sui falli duri, parlo anche contro la mia squadra, e magari qualche rosso poteva anche esserci. Però d'altro canto dico, Maradona lo conosciamo tutti, come no? Non è che veniva picciato in campo, lo fucilavano, no, però gesti storici non mi pare neanche mai l'abbia fatto, solo quando gli hanno aspettato la caviglia. Raffaele, lei come sfonda la porta aperta, perché io Maradona lo assumo come esempio di comportamento in campo, assolutamente. Ognuno fa quello che vuole, nessuno è un santo di noi, neanche io che sto parlando, nessuno è santo, all'interno, però nel campo... Dobbiamo alzare le mani sia di fronte a Balotelli che a Maradona. E lei sa, il cui comportamento era molto diverso da quello di Balotelli, lei se lo ricorderà bene. Maradona era uno che veniva steso, insultato, picchiato, gliene faceva di tutti i colori, si alzava, dava le spalle a chi lo aveva steso e andava via. Io non mi ricordo grandi proteste di Maradona, soprattutto nei confronti degli altri giocatori, non me ne ricordo. E in questo, dal punto di vista dell'atteggiamento, il vero erede di Maradona è Carlos Tevez. Guarda caso, due argentini usciti da un contesto sociale molto simile. Ecco, dov'è? Non risponde, ragazzi, è inutile continuare a provare. Aspettiamo le notizie di agenzia. Giampaolo si è dato alla macchia. Però, dice il fratello, appunto, cosa c'è scritto lì? Ora si muove chi l'ha visto, lo sto leggendo, giuro, non sto scherzando. Lo sto leggendo su un sito, che posso anche dirvi il sito, gazzetta.it, quindi estremamente credibile, adesso lo apro. Poi vi dico cosa c'è scritto. Allora... giornata surreale in casa delle rondinelle, stasera in campo a Carpi. Comunque, si è mosso chi l'ha visto ai confini della realtà. Allora, ore 14:20, ai confini della realtà, anche la redazione di Chi l'ha visto ha contattato il Brescia Calcio per sapere dove stia, come stia e cosa voglia fare Marco Giampaolo. Non sto scherzando, eh. Oscar, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, sono Oscar. Dica. Volevo sapere stasera se speriamo di vincere almeno 3-0. A chi si riferisce? L'Udinese stasera. Come la vede l'Udinese quest'anno? Ma speriamo che venga fuori un bel calcio, perché adesso qua le ultime 4 partite non lo vedo troppo convinti. No, non li vedo troppo convinti nemmeno io, però secondo me l'Udinese rimane il club che ha la politica più intelligente e interessante insieme al Napoli nel calcio italiano. Poi non c'è un assillo particolare di risultato per l'Udinese, l'assillo vero è quello di riuscire a creare giocatori veri, giocatori importanti con l'enorme materiale che l'Udinese riesce a costruire e a creare. Qualche volta l'Udinese ha l'anno no in cui non arriva magari in zona Champions o in zona Europa, ma un po' più in giù. La sensazione che questo possa essere un anno non propriamente positivo io ce l'ho, anche perché ho un'altra sensazione, che è quella che il ciclo di Guidolin si sia esaurito non ora ma già l'anno passato. Però queste opinioni mie. 800 24 00 24, numero verde, ci fermiamo per il traffico, poi torniamo insieme. Tutti convocati. Allora, appena parlato Massimiliano Allegri, come sapete giornata di vigilia, da stasera appunto con l'Udinese, ne parlavamo prima, si apre la quinta giornata, primo turno infrasettimanale dell'anno di Serie A. Domani tutti in campo salvo Inter Fiorentina che si gioca giovedì sera, e viene domani in campo anche il Milan senza Balotelli a Bologna. Ha parlato ora Allegri, sentiamo cosa ha detto. Allora, credo che in questa situazione ci siano due considerazioni da fare. La prima è sull'atteggiamento sbagliato di Mario Balotelli verso gli arbitri, perché nell'ultima riunione, nell'incontro tra arbitri, allenatori e capitani, è stato chiesto giustamente un atteggiamento riguardoso verso gli arbitri, e questo tutti i giocatori, perlomeno quelli del Milan, lo devono avere. Mario Balotelli ha sbagliato perché ha penalizzato, dopo una buona partita che aveva fatto, la squadra, la società e i tifosi ora per 3 giornate. Questo dimostra il fatto, e è la conferma, che la società non ha fatto neanche ricorso. Quindi su questo atteggiamento bisogna cambiare. Poi va fatta un'altra considerazione, che su questo che Mario Balotelli deve cambiare e migliorare e aiutare gli arbitri a tutelarlo, perché Mario Balotelli, quello che ha subito domenica scorsa Mario Balotelli come falli, sicuramente forse a un altro giocatore venivano fischiati tutti. Sarà, sta di fatto che questo pubblico lavaggio di panni sporchi in casa rossonera a me non convince, perché al Milan sono sempre stati e sono tuttora, io credo, molto bravi nel gestire qualunque problema di ordine interno. Questa pubblica accusa anche di Allegri, che poi dice, che peraltro dice cose giuste, non dice cose sbagliate, anzi, questa pubblica lavata di capo a Balotelli a me suona strana. Balotelli ha messo la squadra in difficoltà, va bene, questo è certo. Motivi etici, torno a ripetere, continuano ad essere poco chiari. Però Balotelli ha messo la squadra in difficoltà, benissimo. Secondo me l'ha messa più in difficoltà la società nel costruire una squadra di questo tipo, che, tolto Balotelli, è una squadra da metà classifica. Nick Milano, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per avermi convocato. Grazie a te. Dimmi. Complimenti per la trasmissione. Niente, riguardo Balotelli mi aggiungo al coro. Dico che, essendo tifoso interista, penso che il Milan sia stato sempre bravo a tenere nascosto le problematiche all'interno della società. Questo non si riesce, vuol dire che forse anche l'Inter non è che abbia fatto proprio così male. Ma non... nel far uscire le cose accadute, nel senso che uscivano l'Inter era una società, e lo ammetto anch'io, che comunque a livello di società non è che sì, sia. Però Nick, perdonami, ma non c'è niente da nascondere in questo caso, è una cosa che è avvenuta in campo sotto gli occhi delle telecamere, cioè non è un fatto fatto di spogliatoio, è qualcosa che, però questo dire questa pubblica accusa nei confronti di Balotelli a me suona strana, poi soprattutto in un ambiente appunto come quello del Milan mi suona molto strano. Sono pienamente d'accordo, proprio per questo sto ben dicendo che il Milan, facendo, cioè, non facendo ricorso per quanto riguarda la squalifica di Balotelli, non dico che si sta defilando, ma poco ci manca. Adesso aspettiamo gli eventi. Sì. È indomabile. Io so di un matrimonio prima delle vacanze a Concesio, lui parla di razzismo, ma forse lui che fa razzista nei confronti di noi italiani. Te lo dico per certo, sì. per situazioni che sono accadute. Non lo so. È l'atteggiamento, come sbagliamo noi italiani? Ma perché lui è italiano. Appunto. Fammi parlare, Carlo. Lui è italiano. Ma si fa scudo anche del suo colore, della sua situazione familiare che gli è accaduta. Non voglio dilungarmi perché sarei magari anche Nick, è meglio di no, mi spiace. Torno a ripetere, secondo me, togliendo tutta la demagogia che sta intorno a questa battaglia, che di fondo è corretta, poi c'è un sacco di demagogia intorno verso il razzismo, allora togliamo tutte queste cose, togliamo quello che Balotelli fa fuori dal campo, che a me non interessa, togliamo tutta questa roba qui, secondo me rimane un grande giocatore che ha un grande problema, cioè quello dell'atteggiamento in campo. Ora che al Milan gli lavino la testa, gli facciano lo shampoo pubblicamente, a me suona strana, torno a ripetere. Togliete Balotelli al Milan e che cosa resta di questa squadra? Saverio Parma, buongiorno. Buongiorno Carlo, ciao. Da grande appassionato di basket quale sei, ti volevo chiedere una cosa. Sì. Come mai le grandi competizioni tipo mondiali, europei, non hanno un format come quelli del calcio, cioè una partita ogni 3-4 giorni? E non tutti i giorni. Io penso che ho giocato a basket, penso che non si abbia neanche il tempo tra un giorno e l'altro di parlare della partita precedente. Sì, è molto compresso, sì, no, su questo sono d'accordo. Cioè anche gli stessi playoff in Italia, giocare ogni 2 giorni dopo che hai fatto una regular season che vale fino a lì una volta alla settimana, poi i playoff sono le partite più importanti, giocarle ogni 2 giorni, cioè. Sì. Che l'Italia è arrivata sulle gambe, no? Alla fine, visto che sì, l'Italia è arrivata, però c'è anche da dire, sera, c'è anche da dire che è una regola. Il giorno dopo io, ha giocato alle 2 del pomeriggio. Saverio, però vale per tutti, non soltanto per l'Italia che era spremuta. Diciamo che giocando tutti i giorni in questo modo è uno spremiagrumi molto difficile da metabolizzare per i giocatori per ragioni fisiche, però anche in questo caso si penalizza la qualità della manifestazione, perché è evidente che tutte le squadre arrivano a quel punto che non, che ne hanno poco, non ne hanno più. Sarebbe meglio fare come... Ma sarebbe meglio, e evidentemente per ragioni di tempo, se si vogliono tenere all'europeo tutte quelle squadre, magari bisognerebbe rivedere il format dell'europeo, quindi ridurre il numero delle squadre, o di queste manifestazioni ridurre il numero delle squadre, quindi permettere alle squadre di avere qualche giorno in più di recupero. Se si vogliono avere tutte quelle squadre, è chiaro che non puoi far durare questa manifestazione un mese, perché i calendari non lo consentono. Ma dai... Poi ragazzi, poi lo scrivono a me, non hai proprio rispetto per la sofferenza altrui. Divertiti così a prendere in giro un allenatore che non sta vivendo con serenità un brutto momento della sua vita. Bravo, Michele da Brescia. Sperando che tutto si risolva al meglio senza drammatiche conseguenze, ma fate i bravi. Cioè, ragazzi, molti di noi vorrebbero fare gli allenatori di Serie A, B, gli allenatori professionisti. Ognuno di voi vive dei momenti difficili. Ma magari risponde anche al telefono, no? A tutto c'è un limite. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti regia, non ve la prendete. Ciao.